GASP, giornate antisessiste di sport popolare. Tre giorni di sport, dibattiti, musica, zuppe, cibo, scommesse e socialità consensuale contro il patriarcato. Al CSU a Gabrio di via Miglio 42, il 25, 26 e 27 settembre. Box, Thai, pole dance, rugby, calcetto, yoga, autodifesa, lotta a terra e nel fango, workshop, allenamenti e seminari e molto altro. Vieni a sudare con noi. Lo sport è un gioco. Fallo antisessista.